Salvo per miracolo, testimonianza di Ugo Dovisi. Mi fecero marciare sulle sterpaglie a piedi nudi, legato col filo di ferro ad un amico, che dopo pochi passi svenne, e così io, camminando, me lo trascinavo dietro. Poi una voce slavo gridò, «Alt!» Abbassai lo sguardo e la vidi, una fessura profonda nel terreno, come un enorme inghiottitoio. Ero sull'orlo di una foiba, allora tutto fu chiaro, era arrivato il momento di morire. Tutto è incominciato il 5 maggio 1945, la guerra è finita, deporgo le armi e mi consegno prigioniero al comando slavo. Vengo deportato in un campo di concentramento vicino Pola. Prima della tragedia c'è l'umiliazione. I partigiani di Tito si divertono a farmi mangiare pezzi di carta ed ingoiare dei sassi. Poi mi sparano qualche colpo all'orecchio. Io sobbalzo impaurito. Loro sghignazzano. Insieme ad altri compagni finisco a Pozzo Vittoria, nell'ex palestra della scuola. Alcuni di noi sono costretti a lanciarsi di corsa contro il muro. Cadono a terra con la testa sanguinante. I croati li fanno rialzare a suon di calci. A me tocca in sorte un castigo diverso, una bastonata terrificante sull'orecchio sinistro, e da quel giorno non ci sento quasi più. Eccoci a Fianona, notte alta, questa volta ci hanno rinchiusi in un'ex caserma, 20 persone in una stanza di 3 metri per 4. Per picchiarci ci trasferiscono in una stanza più grande, dove un uomo gigantesco incomincia a pestarmi. «Maledetti, in piedi!» strilla l'Ercole slavo. Vedrò entrare due divise e in una delle due c'è una donna. Poi giro lo sguardo sui miei compagni. Hanno la schiena che sembra dipinta di rosso e invece è sangue che sgorga. «Avanti il più alto!» grida il gigante e mi prende per i capelli trascinandomi davanti alla donna. Lei estrae con calma la pistola e col calcio dell'arma mi spacca la mascella. Poi prende il filo di ferro e lo stringe attorno ai nostri polsi, legandoci a due. Ci fanno uscire. Comincia la marcia verso la foiba. Il destino era segnato ed avevo solo un modo per sfuggirli, gettarmi nella voragine prima di essere colpito da un proiettile. Una voce urla in slavo, «Morte al fascismo, libertà ai popoli», uno slogan che ripetono ad ogni piesso spinto. Io appena sento il crepitio dei mitra mi tuffo dentro la foiba. Ero precipitato sopra un alberello sporgente, non vedevo nulla, i cadaveri mi cascavano addosso. Riuscii a liberare le mani dal filo di ferro e cominciai a risalire. Non respiravo più. All'improvviso le mie dita afferrano una zolla d'erba. Guardo meglio, sono capelli. Li afferro e così riesco a trascinare in superficie anche un altro uomo, l'unico italiano ad essere sopravvissuto alle foibe. Si chiamava Giovanni, Ninì per gli amici. È morto in Australia qualche anno fa. Da Arrigo Petacco, l'Esodo, la tragedia negata degli italiani di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia.